fa. Avvisa Luca, sì che si dà da fare. Oggi ha lavorato un bel cubicando, facendo antenne, e tu lo vedi. Mettami la gobba. Luca già si dà da fare, sempre lavorando. Sta. Mi ha mandato i filmini, una bella antenna ha fatto, eh. Ma lui è bravo, capito? Poi ha cubicato un fucile anche, sempre bene, mi ha detto, e a me mi scende la roba fu sappusato, è vero. E allora, pure le morroni c'ho adesso, a cui ha sappusato in poltrona. Lì ci vuole quella dell'asino. E allora, esci a vedere se mi risponde. Luca Flippero, falla vedere a Luca l'antenna che hai fatto. Ah, la sui l'antenna di Monteoro. Ma te immagini, Lupo? Però è bella, mi piace, poi nera, come piace a me. Quando me la dai che la provo? Sai che gli piace nera a lui, non mica bianca. Nera poi quella è lunga, Luca, 50 centimetri. Che giovetto. Ebbene, caduto sì. Chi è che voleva entrare? Avanti. A dimmi ne entrare, sai che li pensiamo i dicci. Ciao Mari. Ciao re. E lui, ciao re. Bello la maledizio, mi la via, ciao re. Chi c'è in bicicletta, Luca? Barugali li ha da Lazio, si va di traina. Dopo si batta che anda in bicicletta, te immagini? Fidi la voce abbassa e l'occhio, con la brusa e chi sta in Giappone a trainendilo. Chi sta in bicicletta a tre ruzzi? Allora ne devo pure bucare i pedali, cosa ne fate intanto? Infatti non pedaleggia mai, brucia rugali. E da me si pone il burro caschetto, arancione metallizzato, Così lo vedete più bene quando lo devono in munizione. Sì, la visiera a battagliare un vento, no? A chi è che corri un bel? No, Lugari corri, lo brucia, però fanno frina. Sappoggio la visiera a tagliare un vento. Se mi intendi mi magna. Luca, cosa buona hai mangiato? Oggi riso, favetta a ribisare. Oh, Marino, non ricordo, abbiamo mangiato. Ricorda muta, guarda, aspetta un attimo, grazie. Eia. No, io oggi niente primo. Pare se si è fatto la passata di verdura. E io mi ho mangiato il purì, una fettina con i pezzettoni di pomodoro fatta in agassarola, e poi cosa mi ho mangiato? Un pezzo di ricotta muscia con il pane, così, e poi un'altra cosa non me lo ricordo. L'insalata e nient'altro. Una banana. Aspetta, grazie un attimo. Anche la banana e due mandarini, di quelli dolci. No, c'erano, però mi ho mangiato solo la banana. Capita migliore sulla sinistra. Cosa c'è, la mirsa lì? È una diploma di Moliveni, su. Perché da oggi non ho preso il cortigione, non ho preso più di 10 giorni. Adesso faccio una pausa a provare. Se mi si impallano i polmoni d'ora. La bustina me l'ho presa, lumicino e anche l'integratore, un'altra bustina. Cortisone oggi solo lo spruzzo, il discus. E se fine si ma consu, ho peggiorato. Beh. E beh, Flipper, sta bloccando, lo sai, il tubetto. Il tubetto. Ah, sto guardando un video. Un video su YouTube di un aspirapolvere. Di un aspirapolvere parte side. Tipo aspirato di bene, di la figliura. No, io me l'ho comprata alla Bricome, è un bidone grande, aspira anche l'acqua. Fa la dopo per la stufa, pure per pulire in casa. C'ha il bastone qualcosa che aspiri, no? E poi aspira anche l'acqua questo bidone. Era in offerta, costava più di 100 euro. Quando l'ho presa io mi pare che l'ho pagata sull'84, una cosa del genere. E funziona che è un treno. Treno? Ah, io l'ho preso da Bricco, come aspira cenere, aspira liquidi. 39,90 euro, mi pare, qualche 3 anni fa. Oh, quest'anno l'ho presa io, è grande. Già c'era l'aspirapolvere, usavo l'aspirapolvere quella con il filtro, però tutti i volti dovevi abbrurire un filtro, invece questa c'ha un sacco grande dentro, quando è pieno di là per un giambo. Però aspira anche i liquidi, lo puoi usare tipo come scopa, va, chi si umane tipo scopa, no? E funziona anche quello per aspirare in terra, va. Come scoppa, dai. Già lo uso, già. Lo uso all'altra lì. Aggiungi giù i due pezzi di laletta, ho passato quello, scoppa non ne ho passato. Anche con il copro mi rivolge, andà a pigliarle se si vola, no? Ti si fugge, invece chi su, se lo risucchia. E poi fai anche in fretta, prima del copro vai, lo sai. Luca, carne non se ne mangia questa settimana, così è. Senz'altro. Ma il pollo sì, non è carne, no? No, il pollo no, il pollo è verdura. Il pollo c'ha le ali, dunque non è di carne, è un pollo. E se usate si mangia le chaghetta. Niente più pancetta, né maiale, né agnello, quello sì, vero Giulio, però il pollo è con le ali e dunque si può mangiare. E allora, infatti ho già mangiato due giù, due borcetto, vi curate un po' così sto commissendo dei abituri che cantano e... No, Luca, aspetta che c'è Giulio. Sì, ma così si arrabbia e poi ti pungemi. Oh Giulio! Ah, aspetta che sei rubato, allo busso. Oh, ma sempre pensando a mangiarsi. Ah, te hai la ghiaccio un po' carino, un paio di quintali. Cosa vuoi fare? Anzi, oggi primo non ne ho fatto, ma mi ho mangiato il purè, la fettina con i pomodori a pezzettoni, e un pezzo di ricotta e mezza focaccina, là. Quelle focaccine, due palmi di mano, diciamo, va. Luca, e tu cosa ti hai mangiato? Ma io. Ehi. Aspetta. Io ho mangiato riso, risotto a parmigiana. Poi ho mangiato le favette a ribisare. Poi ho mangiato la ricotta mustia, insalata e frutta, niente carne, frutta, banana e mandarini. E poco fa mi sono mangiato un budino e due pancake. Già si andà due da. A Giulio non l'hai compito. Boh, avanti Giulio. Ciao Luca, ciao mi copia. Vabbè, e faccio di mangiare io, mi resta di uglio, faccio asciutta di uglio, no? E poi mi ha mangiato un bel goccettone di cose, di borcetto. E mi ha detto saluto, e mi ha detto mia moglie, ma stavolta cosa ti preparo? Ma che cosa abbiamo? Se non lo so, guarda il frigorifero, ha già messo il frigorifero, una cattura di gamberoni. Mi incomincia a scongelare questi, e si è appunto due petalotti. Ah sì, ma tu non perdi tempo, non mi ha detto, grazie, tu non perdi tempo, no? Così mi ha detto. Se ne devi scongelare, vuoi scongelare. C'erano grezzi e gli assombori. Per cena poi non sono pesanti. Pesanti sono Luca e Gamberoni. Luca! Mi ha dato Zivara, Marico! Sì, sono qua. Se tu chiami Luca, me ne sono munduì Luca, non so cosa lo vuoi. Ma Luca come chiamo così sei tu, a chi ti rugiamo diversamente? Pesanti sono i gamberoni perché? No, capito. I gamberoni non sono pesanti se li mangi a cena, o sono pesanti? Ah, io già li mangio, se ci sono già li mangio. Anche Giulio li mangia, no, io di notte no, non mi risulta, non ho anche mai mangiato. No, mezzodì, sì, però uno, due, massimo tre, non di più. A chi noi che mattiniano assai a me? Mi piace più la ragosta. Ma dico, mi dice, tutte le settimane mi dice che fai dieta. Non sto facendo la dieta. E già si vede, sì. Infatti già si vede. Fai le guance che fai i busti di sto crescendo in faccia. Dimmi tu che io mi devo buoni a 77 anni subito mi devo buoni a fare dieta. Ma dimmi tu, ma mi viene uomo di mezzo coraggio di queste cose. E poi i gamberi non fanno ingrassare, dimmi lì la pasta e il porcetto, beh, quello sì. Però i gamberi non penso che facciano ingrassare, è pesce. Ma cosa fate ingrassare? Ma cosa? E poi, quando ti fa una camminata, poi l'indomani si è appunto, tutte le calorie che hai assunto te le hai bruciate così stesso. E uno dice, quando ci fa mi mangio, non so chi vi a fa dieta, cosa me ne affrutta a me? Cetita, se cresce la balsa, che me la cresci, cetita, preoccupato, sono occupato, No, io... se a Giovanni mi mangio non me ne ha tutti nulla, infatti però il peso mio è sempre quello mio, e 69, 70, arrivo a 75, poi riscendo, però di più non ci salgo, anche allora quando vengo in sogno 74, 75, al limite pane non ne mangio e pasta me ne mangio di meno, di un piatto normale ne mangio di meno, capito? Metto quella che da cui si torna a farà 72, 71 in giro di una settimana. Ma poi rimangiano io con la zona e non ne voto, praticamente mi mangio solo due fette biscottate. Chiudo di albertolo come ha detto Burugosa, perché non bastano due fette biscottate, perché poi ti fai l'insulina ed è come ti non hai mangiato nulla con due fette biscottate. In effetti cosa sono due fette biscottate? Ma io lo mangiano e mangio una tazza di coso di 200 mg e 200 cc di coso di yogurt intero, di riso intero. Da poi quando esco da casa, che esce sempre il mio manzano, esce, da voi andalo a un latte macchiato e una pasta, una brioche, una cosa, un pesce ghiotto, una frittella, così, tutto il mio manzano manca per mente. Io mangio praticamente, mangio tre bucciate lì, mangio lo manzano quando verso lì 9 mesi, riesco che lo vado, no, da poi a pranzo e a cena, merenda non ne posso mai, no, qualche volta così, ma proprio raramente. Però quando sono come niente, a pranzo mangio, è la verità, no, non so che abbattare 100 grammi, con tutti i suoi tutt'ora, mangiare 100 grammi di battano, e io lo bagno e buco. E beh, se uno ha fame non è che se ne bisogna dare la banca con la fame, no? Non lo capita, al limite, qualche volta io quando ho mangiato magari di più, il mezzogiorno, la notte, non c'è ne mi faccio il tè sempre con due fette biscottate, proprio perché mi posso l'insulina e mi beglio la pastiglia, quella del colesterolo la notte. E Luca lo stesso, Luca si ha di magna, magnami, non ha problemi, vero Manicu? No, io mangio, non mangio tutto, tipo mi lascio oli, così pasta e fagioli non ne mangio, pasta e ceci, pasta e picchia, però mangio tutto, vabbè, grazie a Dio me lo posso permettere, non va giù nulla. Tu capote una sala cadrea che non ti sento. Beh, sai cosa quando è grasso, quando bevo birra, mi calassi. Perché la birra ti gonfia e ingrassa anche, non sai che la malta fa ingrassare, è vero giù. Vabbè, tutti gli alcolici fanno ingrassare, già lo credo. No, che sia non mi interessa, a me la roba alcolica non mi interessa, ma fai niente. Anzi, se l'hai fatto per me, mi ha asfaltato tutti quanti i vigni, tutti i vigni del mondo, non avrei fatto passare l'asfalto. Così la roba quando cresce più lungo non fa la roba alcolica. Se non è una cosa che non mi è mai interessata, è proprio insomma, la cosa alcolica. Oh, a preferenza mi devo mangiare un latte oppure un succo di frutta, da voi se capite già verso mezzodipa e lì può capitare con un amico eccetera, o un bitter oppure un succo di frutta o un'aranciata amara, queste cose così, ma roba alcolica, a me niente, manca per anni. No, l'uvino italiano è docco, la patria del burro italiano al televisore. Non so quanti ettolitri di vino esportiamo dall'Italia in America, va pure in Cina, in Giappone, tutti quanti piace il vino italiano, quello con le bollicine. L'altro giorno l'ha fatto vedere al televisore. In tutto il mondo lo portano il vino italiano e piace a tutti. Hai capito? Mi capita di voi il vino anda al fallimento lo Stato. Vabbè, io sì, io lo so, beh, a capiati naturalmente che bevano pure, e bevitori, a chi piace, bevano pure, non me la fate nulla, a me non mi interessa, a me la roba alcolica nemmeno per idea, manca fiaccane bui, non solo di beva, ma nemmeno l'odore voglio sentire, ti puoi immaginare. L'unica cosa che mi guido, sai che andrei di alcolico, più poco, te lo voglio sottolineare, di mezza tazza di spumante di Nadari, ma proprio appena così mi sono male labbra, non mi piacemi, ma non posso fare compagnia, sai, quando sei in compagnia con tutti quanti gli altri bassoni, tanto badi che sono come la Lucata, ma non più di tanto, proprio, infatti mi critichi già l'esempio, non ne vuoi dire questa bucalia. No, io adesso no, perché sto prendendo tutte quelle medicine, però un bicchiere a pranzo mangiando già me lo bevo. Anzi, mi l'ha detto il burro diabetologo, non dico una pulla, ma un bicchiere secondo cosa stai mangiando già ci sta bene, te lo puoi anche bere. Però quando c'ho di meno un po' medicine, me lo bevevo mangiando. Dipende da cosa di Romagnelli, se quello cosa di Romagnelli mi ruvizia, se no, capì. Però adesso questo periodo c'ho più medicine e non ne ho più bevuto. Però non è che mi tocchi assai il vacchio. Dipende da cosa stai mangiando, secondo cosa c'ho. A mangiare già ci sta bene un bicchierino di vino, tanto battagliata, così è Luca. Sempre di medicina non va bene, capito? Vabbè, non è che mi cuo sempre, tipo settimana, è raro che ne tocchi. Il fine settimana male mangio la pizza, ci sta, bicchiere della birra, capito? Se no manco baloccato me ne basta a me. Ehi, anche io, prima quando non avevo tutti i problemi, ma niente a me vesiare vino di mezzo di e di notte buro e non la da zitta pure 3 o 4, dipende sempre da cosa stai mangiando. Secondo cosa sta mangiando non li vincono in manco, comprendo? Cioè no, non mattigiami. Se per dire si fa una vetta bicchetta, una vetta insalata, e così già ci sta bene, un bel bicchiere di vino con un bel pezzo di pane, ci sta bene, capito? Eia, così è! Eia, eia! Oggi boh, sarà che non ha giubilato su cortisone, mi intendo. Trano Lu Eia Grazia. E beh, riprendilo. Sto terminando uno schema, aspetta. Eia, e beh Giulio, ma dove sei in giro a piedi? E allora? In giro, sto camminando. Sono alla base di Coso, Sogo, di Monte Tignoso, lì da quelle parti lì, in fondo. In giro città e già faceva proprio oggi già voleva fare in campagna stasera, però non aveva gana da buio da Clavia Giovato. Allora che cammina da Giovato grazie, sono partito da casa, no? Praticamente è presente che io sto con la Iesia, praticamente io sto con chissà zona così, no? E anche mi sono occupato precisamente a Giosa Monte Tignus, Giacca Cureda, un momento accidente di Giamma, Giacca Mureda, una cosa del genere. Insomma, sono capito praticamente vicino allo carcere di Bancari, sono capito. Da poi ha sbagliato una strada, senza piedi, e mi sono uscito da Santo Giovanni, dal passaggio al diretto di Santo Giovanni, da poi da Santo Giovanni a casa, a piedi. Ti puoi immaginare, ma ti puoi trovare in circa un'ora e mezza, una cosa così, camminando, tranquillo, compreso. Ehi, già la conosco quella zona, a voglia, vanno già cucinando tra vagliare per i punti. Tutta quella zona dei punti, anche di bancale, a voglia la conosco. Anche lì, vanno già cucinando mobili, insomma, avvolgibili, a fare lavori, capi? Già la conosco. E già te ne hai fatto camminata allora, a voglia, e gli affaggi bene. Ma da poi che vi fai giù stradone, mano, lungo, vi passi unito via di Valo Manicomio, dritti vivi, chi sei, pensamente all'incrocio, chi va a Santo Giovanni, se continui dritto, o se sei alla gruca, cosa vedi, lungo su. Arrivi al sottopassaggio della camionabile, se passi sotto il passaggio vai alla cruca, cioè c'è la cruca là lì, dove c'è il coso, a far Napoli, di ridursi, ci vive pure una discoteca. Tu presenti via, lo senti la pasticceria di Sias? Farenni chivi andenni in fondo, non so questo che zona si chiama, non lo so. Suppongo che tu la conosci, la pasticceria di Sias in fondo. Sta combattendo da nostra la pasticceria di Sias, praticamente sono capito. La campagna quasi di Walter, di Walter e di Aburic, sono capito. Hai dipegnato una strada, ha giubilato in chi ti basta pure un branco a trovare. E beh, camminando mi sono avuto il passaggio a livello di Santo Giovanni, ti puoi immaginare quanto da poi da Santo Giovanni mi sono messo a casa addosso, no, di punti a piedi, ma ho fatto più o meno un calcolo, ma saranno poco 8 o 9 chilometri che ho fatto così, tutta la dirata, Marcia Culetta. Giulio, buonasera a tutti, sono in ascolto, continua grazie a Marcia Culetta con la via. Ehi, ciao Marino, ben sentito. Già la conosco quella zona, poi da tanti anni dalla ferrovia si è passato sotto un ponte e ti sei durato dai chivi, da questa strada a Mannalaga, va? Sì, dalla superstrada, dallo coso, da 31, non mi sono cassato. Ciao Marino, ma ciaculetta, manco già non lo ricordavo bene, ma siccome lì non è che sono molto pratico di quella zona, a piedi, passo, boh, gli ho fatto, beh, abbiamo portato 600 metri da voi, beh, avevo portato 600, così via, e sono diventati chilometri. Così qua passeggiare più che altro, dai. Vabbè, mi ha dato una camminata, se l'avremo. Vabbè, ci diremo in allenamento. Intanto cosa posso, non so cosa fa. E allora, figlia, cammino, ma qui su. Vai, Marì. Sto facendo una cosa, Giulio. L'altra traversa si chiama La Clucca. Sta vicino alla Clucca, all'altra parte, al contrario. Che puoi fare il giro tondo, no? Entri dalla Clucca e puoi uscire, arrivi fino a giù alla cosa dell'acqua, ai serbatoi dell'acqua, dove c'è il motore e così via. E esce direttamente a Marciaculetta lo stesso. Ok, avanti, grazie. Io sono ascolto che sto facendo una cosa qua, dai. Ehi, a sempre c'è quella discoteca vicino alla Clucca lì, dove c'è il coso dei tussici. Già c'è ancora, il passi va, mi pare già, ma sì, c'è altra parte, verso la Clucca, quella lì è. Si va, si è ben dritto, c'è il passi, va poi più avanti, c'è il centro della Clucca, diciamo, là dove c'è il coso, c'è un vivaio direttamente, c'è un istituto Pellegrini, dove vengono piante e così via, dove studiano, e poi c'è quel centro dei cose drogate, diciamo, dai. Ok, grazie, riprendi, scusa che sono un fisco più qua, davanti. Ehi, già lo so, perché lì andavo, c'era una ditta che faceva infissi in alluminio, infissi in PVC, portoncini, vindia, e poi ha fallito. E già sono andato spesso lì. Riprendi giù. Un attimo, giù, ti chiedo scusa. Diciamo quel tipo di infissi era proprio dove c'è la discoteca. E il padrone era quello lì, grazie al padrone, era tutto lui era. Vendeva infissi, faceva infissi, poi alla fine, se non sbaglio, l'hanno trovato morto di lui stesso, L'hanno trovato morto a quello lì, avanti giù. Sì, si è impiccato. Si è impiccato, chissà cosa c'era in mezzo, boom, vabbè. Già lo sappiamo cosa c'era in mezzo, va, avanti giù. Ok, vabbè, purtroppo anche quelle sono alzate di testa, quando uno arriva a fare un gesto del genere evidentemente è fuori di testa, non capisce più né quello che sta facendo né dove si trova, per cui se ti puoi immaginare, anche quelle sono disgrazie. E vabbè, dai, comunque, andrà bene, avanti, grazie. Aspetta un attimo, riprendi Luca, che vengo subito. Va bene. Ebbene, Luca, non ci sei. Giulio. Gio, grazie. Mi è maledita, va. Quel ragazzino che ha sparato a quell'altro ragazzo al ghetto. Dici che c'era il picchetto, invece non verrà deciso a chi l'ha ne agguanta tu prima. Grazie, lo sai cos'è? E chi sicuramente fra questi giovani e non per la meravigliarsi oggi, lo sai? Oggi mi è sempre più male di mezzo, se io dico, ma lo dico che è stato un incidente, così, una cosa per un gioco, ma è chi per la roba di più male, chi mi si sono briati, si sono afferrati e sicuramente è il suo che l'abitudine l'ha imparato, cosa? È inutile andare a discolparsi questi elementi, che a me mi base di burro, quindi precisamente la gara di ma non te lo dico nemmeno, dai, già mai compreso comunque di cosa. Ma quanto sembra, quando ha aperto la porta e gli ha sparato, non è a quello che voleva sparare lui, lui voleva sparare all'altro ragazzo, che era il proprietario dell'appartamento, a quello là doveva sparare. Invece questa bestia ha imparato da Guido, e tu si crediamo da Guido, invece no, ha imbagliato. Mi sono fatto fare la pittura per me la delinquente, boh, basta, che tu tutto. Ecco, io l'ho messo sempre così. A me che tra niente così non me ne passa di bene, anzi è meglio che si ammazzano i praeti. E sono sempre più contento, più si ammazzano e più contento sono. Allora, ma così elimina già un po' di delinquenza. No, chi sa ne l'ha pizzicata da rubabbo quando non ve la rubabbo. La pittura era di rubabbo, denunciata e tutto. E tu l'ha pigliata l'acqua di rubabbo. La pistola va chiusa in casa forse, grazie. Anche al padre io l'avevo denunciato. Ogni arma va custodita in una casa forte. Continua a giù, davanti. Mica lo sommi, a me lo dici. Allora, l'arma la metti in una casa forte e le cartucce le metti da un'altra parte, un'altra casa forte. Non le devi mai lasciare insieme. Non ridi a me che goli, già lo so. Però via, tu vabbè, quando ha comprato questa vittura, devi ammazzare innanzitutto un figliolo, perché intanto è delinquente, tu è un figliolo puro, stai tranquillo, perché un figliolo, un capusano, puro sapendo chi fa la vittura in casa, non la tocca, la toccata perché è delinquente, e chi vive la roba di più, va lo bianco, a futtidini, grazia, e chi se l'accusa, solo chi fa la vagogna non lo dice, non lo dice nella verità, ma è così però. Intanto la papà in mezzo a riguardo e poi lo papà, e fa conto che lo papà non sa più nulla. Si la porta in mezzo ai casini sui, non figliuli. E chi va a passare qua e si pure lo papà. La pittura della sua custodita da te. Non è che la porta chi per là che li già vichivi. Li già vedessi il botto, appresso si la mangia in qualche luogo che sai solo tu. Capito? Chi sei gentaglia, grazia, pure di Roma in capo, chi sei gentaglia, e buh, è inutile stare, no, io non li compiango per niente queste persone, a me queste persone mi fanno il represto, mi fanno, e basta, io non ho nessuna lacrima di chi sa niente, ma chi si ammazza ogni uno, ogni secondo, e si sono due e mezzo, ogni secondo, ma figurati, oi. Quello già è vero, chi sa niente così, il giorno prima vi la via in giro, chi sa mistura, il pantalone prende la vedere gli amici, ogni avvora del capo, ogni mancante, deve essere proprio messo male di cervello. Riprendi Luca, Marico! Vabbè, giù chi sono? Va, ammazza, dove essere pintuto, dove c'era pure i picchetti, va, cosa ha fatto? E allora, tu perché ci sempre col tirarassico in tasca, con la forcella, Luca? È vero. E allora io ce l'ho qua a me, se passi qui ti tiro la pizzicolata. È vero, la vitella. Con la forcella mi avevo fatta in falegnameria. Dagli altri, e funziona pure, che c'ho le fette quadrate di caucciù. A te lo ricordi giù, il pudicale del tirassico? Graziano, forse siamo lontani adesso, boh, non ti sento più. Basso, pio ti sento, dove sei? In un pozzo! E poi se tu ti sposti non mi senti più, rimani fermo che sono sempre in direzione abbastanza buona, dai! Io sono fermo, la radio è sul tavolo, schiaccio solo il pulsante, è sempre allo stesso punto, magari lì è un punto di zona ombra un po'. Aspetta che provo ad aumentarla, a vedere. Che metto questa, già lo sai, questo qui ha tre posizioni di vantaggio, no, aspetta che provo a vedere se mi senti meglio. Aspetta un attimino. Luca, cosa stai facendo? Niente. Luca, Maiku. Grazie, non mi senti ancora? Sì, che ti sento un po' disturbato, ma già ti sento. Ti porti appresso un rumore tipo siccome il frequenzimetro non ce l'ho più qua, perché mi era caduto questo portativino, è sparita la frequenza, non si vede più, ma lo devo ricomprare nuovo il PMR, e adesso ho cercato di cambiare la potenza, non so se era un watt o quanto era, lo volevo mettere più forte, però non so se ho fatto il giusto, perché non si vede, capito, il quadro non si vede più. Qua l'ho visto proprio ieri, in un sito cinese, però ci mette 2 mesi a arrivare. 26 euro completo con il microfono, poi penghi telefono. Va bene, rispondi. Era il telefono, e beh, Luca, caduto sì. E riprendi anche tu, no. Solo io e Giulio parliamo, ma va bene. Non mi volete. E se tu non entri, Milo comincia, entra, parla. Aspetta che devo passare un gioco a Marina, passagli il gioco a Marina. Mi sa che mi faccio lavare, mami. Beh. E ora di scidati, di bisattini, e ti piace poco, io da flecchi. A me mi piace riposare. Capito, dopo pranzo mi piace riposare, come se tre grandi giro. Dai, entro da voi, là. Che sto facendo cosa? Ehi, a Luca, tutte le fragole si è mangiato. Ma non ti sono arrivate quella cassetta? Che mai? Tutte Luca ce le ha mangiate, le ho mandate da Luca. Che mai? Paolo, tutte te le hai mangiate? Ehi, che mai, non mi tossi. Ah, sono sveglio, vai. Ciao, entro dopo, dai, che sto facendo cosa. Ehi, ok, Gio Maria, dopo, ciao. Luca, le fragole di Gio Maria che ti ho spedito, mangiatetele. Oh, e ogni tanto già le compriamo pure noi. Ce le mangiamo con Maria, ci mettiamo la Macedonia. E io ci metto anche con la panna sopra, mi. Oh yeah! L'altro bazzano me l'ha già fatto una giccala con la panna. E la panna ti fa diventare un boia, già sei un boia. E ti ha mandato pure quella chicchera, non l'hai vista l'altro giorno. Sì, mi rimandi tante che boh, io poi cancello tutto, grazie. Vado nelle cose, cancello video e foto. Solo il telefono si riempie, capito? Anche io già li cancello, aggiungiamo a mandare a Luca, così vedi la fame. Buona lì, dali, oh yeah! È vero. E allora, tutte me le mangiate. Produsa. Ma, insomma, Tore è proprio... proprio all'ultimo staffo, chi dà, vabbè, chi ti va in campagna, travaglia, è una cosa, mattore, e travagliare in via paghi che andui da travaglienti. Torre! Grazie, però tu mangi troppo, troppo. Bravo, lascia stare la roba dolce. Oggi caramelle non ho mangiato stasera, neanche cioccolato. Magari saluti questo cioccolato fondente con qualche caramella, già me lo mangio, là. Però stanotte. Mangiare verdure, sedano, carote, carote crude, ma che fanno bene. Dolci, le fanno e poi la glicemia. I finocchi, poi devi mangiare, per il diabete fa bene il gumaro. Cetriolo, capito? Quello fa molto bene, non so se ti piace, a me fa di schifo. No, già mi piace, però la sera, la notte è pesante il cetriolo. Lunedì me lo mangio, anche così mi lo sbucio. Lo taglio, li pongo l'usare e me lo mangio così, o se no è insalata. Con i pomodori, cetriolo, la tuca o... o chi dà ruglia, la belga, con la belga. Dicono che il cetriolo fa bene anche la cistifellea, ma non rimane che mi fa schifo. No, senti, tu mi sta facendo cosa mia figlia, cosa hai detto? Ho detto che il cetriolo fa bene alla cistifellea. Ah, già, no, già mi piace, già lo mangio. Anche le carote le mangio. Me le faccio le cose anche quelle che metto nel brodo, me le mangio dopo, ci metto un po' l'elevo, una volta che è cotto il brodo, e ci metto anche la patata, ci metto l'olio d'oliva, un pizzico di sale e un goccio d'olio balsamico, e mi rimani, a me piace. Sì, fa bella verdura. Avanti Giulio. Giulio stava cercando un'altra possenza, boh. Giulio che è caduto, Luca. Non si sente più. E l'altro Luca che fila ha fatto? Starà facendo. C'è che attendi la gobba. Ah no, doveva bloccare quel tubo dell'antenna. Gira gira mi faccio un giro di barba, ma tu lavati lì. Allora no, dopo. E anch'io vado a lavarmi, adesso mi faccio questa partita e poi vado. Ma io qua bagno ne ho solo uno, devi entrarmi in figliura. A parte la luce, devo aspettare il turno. Non abbiamo uno bagno, uno lo usiamo... Lì c'è la lavatrice, capito? L'altro lo usiamo per lavarci, entrare in bagno. Sì, lo usiamo, magari l'altro occupato, già lo usiamo lo stesso, non è che non lo usiamo. Però a lavarci c'è anche la doccia lì, eh. Lo so, mia è uguale all'appartamento di mia nipote, quello. Cioè lì c'hai due servizi, uno c'è la doccia e nell'altro che è più grande c'è la vasca da bagno. Già lo so com'è, è uguale a quella di mia nipote, quell'appartamento dove è Maria. E già è grande, ma da me non ce n'è, bagno è solo uno, è più piccolo il mio appartamento. Lo so. Adesso vediamo, ma tanto cosa... Sì, già è utile, magari se... Siccome c'ha il piatto doccia, viene male piazzare il box doccia perché c'è la finestra. Già lo so, c'è la finestra e il piatto doccia non lo puoi piazzare. Lì non puoi piazzare il box doccia. C'è la finestra nazista. È nazista, come l'ho messa io. Oppure te la metti, sale e scendi, la controfinestra. Ma corri dai, che sotto la finestra c'avevo la vasca. Lunga. Tu quindi non la vasca di fronte alla porta ho messo il box duccia. La vasca l'ho eliminata perché veniva male aprire la finestra. Ho messo la finestra che fa vasista anche. Capito. Ha capito, zio. Puoi mettere piatto la box duccia, basta fare la finestra vasista, o se no la metti sale e scendi, no, la controfinestra, era l'antani la buchi. Avrei buon trabaglio chi fa allora. Già è comodo la doccia, va bene che nel bagno già è grande, metti l'asta da muro a muro, poni la tenda e poi ti la fai l'altro bagno. Ah, io facevo così prima. Però è sempre comodo il doppio servizio. C'hai il lavandino, il water, di lì non ce n'è mi sembra, no? È la doccia, sì. Vabbè, però uno già arriva la barba, andai che invece la base, deve entrare in bagno, se l'ha occupato può entrare lì. Già è comodo. Oh no! Caruccio sei lui! Grazie! Aspetta un attimo! Eh? Aspetta, sto mettendo il telefono sotto carica! E anch'io l'ho messo, vabbè! È bello. Grazie. Ehi. Luca. Che faccenda c'è? No, ehi, me la faccio domani la barba. Si asciutta i peli. Sono già risvetti, ma così. Cosa, Grazia? Me la faccio domani la barba. Adesso non me ne faccio. Tanto sono già le 7, ma... E tu la doccia fatta, tra? No. Ah, no, ancora. E vabbè. Vabbè. Non c'è entrato nessun altro. E Luca Flippo è sparito. E Lu? Ehi, troppo travaglio, va. E là, un benna. E allora, chi dato lo matteci, aggiunati zappà, piantà in campagna, torre sempre in giro, boh. Tutti impignati, Gio Maria, ma è abbassa al forno, ma manda un messaggio, va, su WhatsApp. Sì, già lo so che Gio Maria sta sempre mangiando, ma... Peggio di noi, no, grazie. E allora, va... Ma Rubelmo è che ha sempre piccoli tenni. Il suo cacce. Ma... Non ci sei più. Allora, stava la tenda sopra il Brasile. Dunque Eva non arrivi. Ma su Facebook non ci sei più. Ega. Tu. Sì che ci sono. Boh, non ti non mi esci più. Cosa? Non mi esci più, ho detto. Beh, oggi non è abbastanza duda, cioè stamattina solo, che ti ho mandato i saluti. E poi tutto il resto del giorno non ci ho guardato niente. Beh. E poi adesso l'ho messo sotto carica. Eh? Che è, oggi non ho guardato quasi niente. Di lì. Ma come fai in inizio perché ricerco niente? Che? Olu. Ma non venta, non ti rispondi. È troppo biliardo, Troppo biliardo, Olu. Oh, dimmi. È troppo biliardo. Già, Gio Maria, ma buona la pasta al forno. Gio Maria, non mi tosse, Gio Maria. Che stai facendo, c'è? Boh, non ti rispondo, ma con Gio Maria, grazie, boh. A chi aveva la città di Rubino? Mi venni, ti pare che ti rispondi, mura la data ma rispondi, non saranno. Visto che sei la Macedonia, come fai a dire un cazzo? Aspetta, sta bifinica. Ah, mi subito quella cazzosa, così è, grazie. E da se mi scende pure una tazza di Macedonia, di chi si cappellate, chi si guazzi manni che vai giù per un attimo, tipo questa. Certo, non metto la panna come me la metti tu, però, pucci, pucci, normale, è più buona. No, con la panna è ancora più buona la fragola, gli fa il tocca sano proprio, diglielo tu, Lu. Diglielo tu, dilla Eto. A te, dilla a me, non dilla Eto. Lui, diglielo tu, che sei intenditore di panna. Buona vita, Dico tu l'hai prozzata. Sì. E ciao, te la salto, perché sei buona. E pure nel caffè molte volte me la metto. La panna. Bonare dai Luca. No, ci ho messo le pere, le banane, gli aranci, poi ci ho schicciato anche un po' due limoni pure in mezzo. Ehi, come la faccio io, la classica macedonia. Poi lo zucchero, giri tutto, la buona in frigo. A casa saluti è bella fresca. Saluti la saggemo. Ehi, un po' che Luca mette da danni. Ehi, Luca mangia da bassa forno. Ah, ma mi sa che la passata a mezz'ora, così è lui. Oh, si mi ha detto l'acqua un giro, una succiata e non finirà più. Chissà se gli hai battuto al forno, a mezz'ora, ma come sarà? E con la famiglia cantava oggi, che era un'occhia, ha travagliato troppo oggi. Giammari! Che era? Vabbè, lui, questa pasta di qui, per la servizia oggi. No, Giammari, a me la pasta al forno. Ah, così è. Tramandata la pasta al forno domenica. Ah, a me non mi piace, non mi piace assolutamente, non la mangio mai io. E raramente a mangiare pasta al forno, perché non mi piace, ma... All'altro mi piace, la mangia, a me non mi piace, non le mangio, capito lui? Preferisco gli spaghetti. No, Mari, non so se Luca te l'ha mandata domenica, che ha fatto la pasta al forno, te l'ha mandata la foto? Già me l'ha mandata, già, una teglia manna. Ma la giubbotta, a ricucciucci la giubbotta io. E vai, prendi un cucciuccio, dai, un cucciuccio manno, però. E allora... Io le mangio io. Sono mezz'anni non le mangio io, Non mi va assolutamente. Ma la fanno sempre, però no, non le mangio io. Mangio un'altra cosa, però proprio la passaporto non la mangio. Non è che prima la mangiavo, adesso non la mangio, non mi piace più. No, vabbè, io da un po' non le mangio. Domenica la fa Marina. La fa sabato per domenica, ce la portiamo in campagna. Sì, ce l'ha fatta, passa il forno, è passato il macchietto. Mi me la faccio tre teglie, e una ha mandato a me, ma io la faccio mandare direttamente ai guicciucci. Allora, in realtà ti piace la pasta al forno a te? A me sì, ma ti viene subito, dunque me ne mangio un pezzo, ma che ti deccia? I condimenti sono la panna, capito? Ma la besciamella, la mozzarella, prosciutto, ragù, pomme di formaggio, la mozzarella, sono tutte queste cose che ti saziano, io ho voglia. A me già piace, adesso no, bene, adesso siamo da un po' non le mangiamo, vero Mari? Allora. Tu pensa, c'era la figlia a febbraio, siamo quasi a maggio. Ma a me mi piacciono bene le lasagne, mi piacciono bene quelle agli spinaci mischiate con quelle all'uovo, con il riso, anche il risotto alla pescatora mi piace, e già è buono, e pure gli spaghetti rimangono, gli spaghetti. I fusilli, quella pasta così già me la mangio, le pennette non assai, però di più mi piace l'altra pasta. A me le penne piacciono un bel a me. Beh, io l'unica pasta che odio, che proprio odio, è le spaghetti numero 5, anche se la mangio però non mi piace. E i bucattini, mamma mia che mi resta brutta. I bucattini sono buoni anche quelli, perché se fai il sugo al ragù, i bucattini si c'entrano tutto il sugo con il ragù, e magari non ti vieni a te a mangiarli, invece sono ben buoni, specialmente se fai un bel sugo. Caspita, no, io già la cucino, anche i bucattini ce li ho qua, e li ho fatti anche da poco. Anche le bavette mi piacciono, le bavettine mie, chi si chicciate, che sono come le spaghetti però sono piatte, capita poco sono buoni, basta che fai un sugo buono, la pasta io la mangio tutta, di meno di tutti le pennette, non che mattina la sai. No, a me le mezze penne, le pennette, bonariti, i tortiglioni, i fusilli. Tutta la pasta, gli occhietti quelli piccolini, buona rete, abbiamo fatti l'altro giorno con il sugo piccante, ma buoni, avanti Giovanni. Voi essere di giovane è meglio di me, Graziano, già mangia un bel mangia, Graziano, deve essere, perché cazzo è sempre mangiare dietro, ma non credo che si commenti Graziano più lungo. E gli occhietti piccoli piccoli me li mangio col cucchiaio, mica mi prendo la bucchetta. E poco so buoni, mi. Oh yeah! Un bel sughetto, apposta di mazzinato, pomodori a pezzettoni, carote in mezzo, bella trancia da me. Oh yeah! Con un cucciare me lo bagno. Vai, hai capito Giovanni, due mangia se ne affutti, e tanto cosa fai? Significa che non mangia è molto, fallo mangiare, solo che purtroppo lui esagera, non deve esagerare. Beh, lo sai quanto ce l'avevo la glicemia prima di pranzo oggi, perché non ho preso quella tazziglia in cortisone? 154, dunque vedi... E comunque anche a mamma è scesa, perché ieri era 167, è scesa molto, da 282. Solo che lei ogni tanto fa la monellina, perché ieri sono andato e gli ho comprato le ricottelle, e io non le ho mangiato. Dice che non erano per lei, ma poco vi credo. Invece stamane la pesata di lui e tu mi davi a 205. Prima di pranzo ce l'avevo 154 e mi ha mangiato due fette biscottate con un po' di marmellata e il tè in tutto il romanzano. E dopo, più tardi, quando me la misuro vediamo quanto ce l'ho. Ma penso che, perché non ho preso le pastiglie del cortisone, ho preso solo la spiriva. Dunque, penso che adesso mi torni come era prima, speriamo. Cos'è questa spiffa? È un disco che lo apri e sulpi ed è a base di cortisone per i polmoni, è un dischetto, no? C'è un pulsante, lo giri, apri l'altro tassino e lo aspiri. E quella è a base di cortisone. Poi c'è un'altra pastiglia che la metti in un contenitore, schiacci la bucchia e tira giù il pirumate, sempre per i polmoni. E poi ti devi fare gli sciacqui però. Se no ti esci un muvetto come te li neonati, in laringa. Ehi, perché mamma lo prendeva a quello all'inizio, poi quando era uscita dall'ospedale che gli hanno dato l'ossigeno, ho capito. Questa cosa doveva fare così, infatti mi dimostra che si muoveva tussì, non riesce a farlo, a luce, ma sai le cose che gli hanno dato, la popolaccia, distrutta l'anno, all'inizio, Gesù Maria, tra insuline, le pastiglie, e il fiumiuvalo che aspiravi, non so, forse per i polmoni, non so che cosa, poi l'eparina, distrutta, donna distrutta. Lì c'è più, barre, è medicina in polvere, però la devi aspirare così, capito? E poi ti devi fare gli sciacqui, e beh pure, se no ti esce un mughetto, come neonati. Riprendi Giammari! Un attimo, grazie. Grazie, vai da canale 5, c'è Luca Flipper. No, l'hai spento il televisore. E lo sai Fenni. La Bolulise. Oh, già chi mi ha rivisto? L'ho spento, boh, aspetta, lo accendo. Muoviti però, tu che ti assomigli un bel Luca. Ma sa cosa, te l'hai buttato male in cantina a travagliare. E lo vedi, grazie. E beh, grazie, l'hai vista Luca. Già lo conosco quel tipo lì, aveva fatto un film quello scemo, quel film di quell'isola, te lo ricordi, visto la Bibi, che erano carcerati e li mettevano in quell'isola, te ricordi? Ma qui un Pandoro va. È un turno, è mai da Dio, capita mica è feo, ma brutto proprio. No, ma lei ha detto che è carino, che è grasso, comunque assomiglia a Luca, vero? Un po' si assomiglia, vero grazie. Ehi, anche i capelli, il taglio dei capelli è uguale, con la riga a un fianco, sì. E tutti chicciati. Poi se lo risponde in televisione, va. Intanto quello c'è, ma aveva fatto quel film, non te lo ricordi, quel film che era sempre gay, che vestiva con chi c'ha vestaglia lunga lunga. No, non mi ricordo, ma che film aveva fatto, ma se lo ricordi? Aveva fatto un film, questo qua, questo tipo Cicciottello. Sta confondendo forse ragazzi della Terzacci, dillo se lui, però è un altro, non è lui. Comunque c'è uno delle i ragazzi della Terzacci che si assomigliava ragazzi, molto. C'aveva i capelli rossi, ma non era, era un altro. Luca. No, era un film di carcerati, questi carcerati li mettevano in quest'isola. E questi carcerati erano divisi, erano i demoni che ci avevano fatto una specie di fortino e i demoni in quest'isola, sempre di galeotti. E un culasso si facevano, combattevano anche, capito? Si ammazzavano l'uno con l'altro. E chi lo Stato si guardava tramite le telecamere, no, si guardavano cosa facevano quando si scannavano tra di loro, che facevano le guerre, no. E chi si divisiano a Baidalli. Adesso non ricordo il titolo di quei film. Chi è che mi chiama avanti? Mi stavano chiamando, chi è che mi chiamava avanti? Gio Mari è pari d'uzzorra. Gian Maria era su scendi in fragola, tutti su cavalla, poi sulla banna, buruetto. Che ne so, grazie. Le 7:15. Comunque quella che è lì è carina, hai visto? Eia. Poco fa stava ballando con Paolo Bononis. Eia. In gamba, fessua, pazienza. E se no non è per un vecchino. E allora? Eia. Luca, il tuo burro è caduto. Cosa? Quest'altro che c'è adesso da Bologna. Deve essere caduto un burro. Era un tramissoli. Galateso c'ha la cartolibreria, c'ha un'edicola. Sì. 37 anni va, ogni è imbranato. Si vede ai loghi, li scende alle luci al mese 5 minuti, oh lui. Sembra che è un po' budozzi il burro, no? Si tira giù, tu che cazzo. Ah? Ti ho detto che è caduto, è dolce, è un biscottino. Guarda, mangaglio. Ogni imbranato, è un imbranato, non lo vedi. Guarda, sei intelligente, Baro, Già due ne ha azzeccato. Ma poi sta insultando 24 su 24, leggendo i libri, i giornali, ci travaglia un'edicola. Hai visto che voce, Luca? Anche Luca Flip è bravo cantando. Già l'ho visto già nel karaoke della chiesa. E cantava, con microfono di peltro. A chi non ha giusto burro brucitelli, Maria, un usignolo Maria, che doveva avere un gaggiano che dai passelli. È vero. E come cinque tappa, l'usignolo. Già lo so io. A chi tu ti devi arrigare un tirarassico? Lo so, ma te ne devi prendere l'abrico domani, no? Cosa devi comprare dall'abrico? Un'antenna. Caspita, col costruttore va a comprare l'antenna. Ma lo dici al capo. Antenna TV mi. Luca le sa fare. Guarda, all'abrico, al culo d'arginese, ne ho comprato una che è piccola piccola, c'è anche la base magnetica e funziona bene il televisore. Quella l'ho presa dal cinese in via Pascoli. Poi quella del salone bianca ce l'ho appoggiata sul mobile, la puoi appendere fuori. Quella l'ho presa la bricco meme. E funziona bene, senza antennare fuori. Tutti i canali prende? Tutti i canali, ce l'ho. Quella è il salone, quella bianca della bricco meme. E la puoi appendere anche fuori, prende dappertutto. E l'altra è come il pollice, ma davanti all'uridu, con la base magnetica presa in via Pascoli dal cinese ed è in cameretta. E funziona a tutti i canali. Questa antenna che ho, una è di camera da letto e una è di qua di cucina. Ehi vabbè, dimmi la che sei di fronte a Monte Oro, sennò col cavolo. Guarda che quella bianca che ho preso la bricco me, ti la bevo il burro da un galaccio, accendi la televisore e piglia, non c'entra niente, poi ce l'ho in salone, non è a Danza Monteoro, a Danza Monteoro c'ho sul terrazzo quella del salone e quella di camera da letto, cioè di camera da letto e di cucina, però se mi voglio dice compro altre due di quelle, funziona lo stesso perché ce l'ho di fronte qua a Monteoro. Però il salone è dall'altra parte e quell'antenna tu se la lasci attaccata, la metti nel cassetto, funziona lo stesso perché c'è una carica, non so come in te, e prende dappertutto. Vabbè, ripeto, che sei, perché hai Monte Oro davanti. Ehi, ma a parte quello, quella del salone però è con un alimentatore attaccata alla presa di corrente, invece quella in cameretta no, quella è senza alimentatore. E c'era un sacco di gente, anche si vede da qua nel grattacielo, la facciata da quella parte mia, c'era lì e noi andavamo a Monte Oro. E dall'altra parte di un grattacielo Monte Oro. E ce l'ho un sacco di anni e funziona bene lo stesso. Ma lo so, vabbè, comunque. Il discorso è che se sei in un punto brutto non ti piglia. D'altro busso garantì. Bisogna vedere in che punto sei. Secondo me se è un punto brutto la metti in alto, fuori nel tetto, quella, piglia. Vabbè, ci sono da bricome, quelle antenne direttive, diciamo, quelle, non so come si chiama esattamente, quelle funzionano benissimo, non bene, benissimo. Va bene, adesso chiudo, là, ce la sentiamo domani. Va bene, grazie, da, a domani, sotto a Paoletta, perché è la parte di Marina. A domani, ciao, anch'io chiudo, ciao. Ehi, ciao a tutte e due, buona cena quando l'ha fatta. Ciao a chi è in ascolto, a domani. Via, ciao. C'è nessuno? Aspetto! Buonasera, canta tutto silenzio, beh. Ciao, ciao. Ah, te la stai spassando, È un bambino. Non si sente più, sempre in giro, quando vai nel botte cosa fai? E poi forse andi in giro. Fai bene. Fai bene, allora sei già stanco. Va, sconsegnato, ritirato. Adesso che no, che. Ma chi io? Ma cosa ne so? Sono in campagna? Fatta, la si sente, la stiamo abbandonando, cazzo, Ma sei sempre graziano, vera, cos'è, ritirato c'è? Graziano era il PMR, da Ghisi, casera. E adesso ha chiuso, io stavo guardando la TV ed ero in ascolto, sono entrato un po', ma... sto facendo cose, capito? Io sono arrivato adesso, sono arrivato, è acceso. Ma Lucca, beh. Ah? Lucca! Lucca, è morto, c'era. Pensi c'è ancora... Purtroppo, Lucca! Era qua, ma evidentemente ha chiuso... Abbiamo chiuso quasi tutti, dai! Andava bene. Pazienza. Aspetta, io arrivo lì. Alle 7:30 o alle 7:25, boh. Perché sono da presso. Loro chiacchierando, ho capito. Così che eventualmente erano loro due soli, magari si sono soffatti, allora ha chiuso Graziano. O si deve fare l'isolina, boh. Io mi sono accentato perché stavo facendo cosa. Infatti, noi vabbè. Io avevo mio nipote, non poteva far nulla. Purtroppo, l'ho portato a casa sua, ha ritirato la signora e adesso che rientrava. Prima il dovere. Prima si deve fare il dovere, si deve fare, capito? Dopo se c'è tempo, è chiaro che... Tempo, non ce n'è allora... Cade per un tempo si chiacchiera, no? Infatti, quando c'è tempo si chiacchiera. Purtroppo quando va già chi non posso fare nulla. È come solito, tutti, quando uno è impegnato, allo gridi, e cosa fai? Infatti è così, non posso fare nulla. Dai, ci sentiamo a dai, che devo terminare una questione in casa, per cui devo chiudere. Eventualmente ci sentiamo, lascia acceso, ma non entro, capito? Sì, Gian Mari, dai, ci sentiamo domani. Ok, ciao Gian Mari. Ok, bye bye.